Partiamo come sempre dalle materie prime. Oro a 1275 dollari l'once, in rialzo dello 0,2%. Il WTI, il petrolio quotato a New York, con consegna a dicembre a 93,12 dollari al barile, in rialzo dello 0,10%, il Brent in lieve calo dello 0,16% a 108,3 dollari al barile. Siamo ancora in attesa dell'ufficialità, intanto sappiamo che JP Morgan e il Dipartimento di Giustizia americano annunceranno oggi un patteggiamento da record da 13 miliardi di dollari. Questo è quello che riporta il Wall Street Journal. Secondo le fonti del quotidiano, la banca avrebbe raggiunto un accordo sull'assunzione di responsabilità per gli errori di Washington Mutual prima che JP Morgan l'acquisisse, oltre ad un accordo su un pacchetto da 4 miliardi di dollari di aiuti per i consumatori. Ci sono i dati dell'OCSE oggi, l'Economic Outlook, che indica le prospettive, insomma, per l'economia mondiale. Parliamo dell'Italia. L'OCSE ha rivisto al ribasso la stima per il PIL nel 2013, passa da meno 1,8% a meno 1,9%, e quella per l'anno prossimo, una crescita da più 0,5% a più 0,6%. Crescita è una parola forte, naturalmente. C'è una questione che riguarda però i conti pubblici, dice l'OCSE. Il miglioramento sul fronte del deficit è stato sostanziale nel 2013, ma con un rapporto debito-PIL ancora in aumento ci sarà bisogno di una stretta di bilancio intensa, almeno quanto programmato nel 2014-2015. In Italia, dice ancora l'OCSE, la ripresa prevista potrebbe essere ostacolata se le condizioni del sistema bancario restringeranno il credito e interromperanno il normale ciclo di investimenti. Vi abbiamo detto dei dati di PricewaterhouseCoopers insieme alla Banca Mondiale, ebbene c'è anche il Wall Street Journal che ne scrive. Con un'economia che stenta a ripartire e una disoccupazione a livelli record, il peso delle tasse in Italia potrebbe distruggere le prospettive di ripresa. I dati dall'Italia ci raccontano che gli ordinativi dell'industria a settembre salgono dell'1,6% rispetto ad agosto. Grazie soprattutto alla spinta arrivata dall'estero, si tratta del rialzo annuo più alto da maggio 2011. Il fatturato segna il secondo aumento consecutivo su base mensile, anche se limitato a un più 0,1%. Su base annua l'Istat registra ancora un calo dell'1%, il 21esimo consecutivo. Ci sono le questioni che riguardano Finmeccanica, poi ci torneremo quando parleremo più dettagliatamente della situazione sui mercati. Perché? Perché i media indiani hanno riportato la notizia ancora una volta che l'India avrebbe deciso di cancellare il contratto di fornitura di 12 elicotteri di Agusta Westland. E però Finmeccanica interviene con un comunicato e dice: non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dal Ministero della Difesa indiano. E alle obiezioni sollevate dall'India, Agusta Westland risponderà la settimana prossima. Sono i dati auto sull'Europa. Sale ancora il mercato in ottobre, più 4,6%. Italia ancora in calo, meno 5,6%. Grande exploit della Spagna, più 34%, ma c'è un programma di rottamazioni. Fiat Group ha immatricolato in Europa 60.183 nuove vetture, in calo del 7,3% rispetto ad un anno fa. Calo per tutti i marchi, Fiat 3,5, Lancia 11%, Alfa Romeo 34%. bene Volkswagen più 5,7, Renault più 14, Opel più 6, negative Peugeot meno 0,7, Ford meno 0,2. Bene anche Daimler più 7% e Toyota più 14. Dati anche sui trasporti e sul trasporto aereo. Il traffico italiano torna a contrarsi nel 2012, in calo dopo due anni positivi, passeggeri meno 1,3%, sono dati dell'Istat. E continua a diminuire la quota di utilizzo di vettori italiani da parte dei passeggeri in arrivo e in partenza, scesa tra il 2007 e il 2012 dal 56% al 38%. Intanto su Alitalia interviene Palazzo Chigi, che dice: cerchi altri partner anche extraeuropei. Questo lo dice il consigliere economico di Palazzo Chigi, Fabrizio Pagani. E sull'ipotesi Etihad, dato che Pagani è stato recentemente in visita negli Emirati Arabi Uniti, ha detto: abbiamo parlato di investimenti, ma nel senso più ampio possibile. Sono anche notizie che riguardano il contratto dell'ABI, visto che sul sindacale e sulle relazioni industriali approderemo tra poco con Indesit. L'ABI è pronta a sedersi al tavolo, anzi prontissima a sedersi al tavolo con il sindacato per il rinnovo del contratto di lavoro. Questo a parlare il direttore generale dell'associazione Giovanni Sabatini, precisando che la disdetta non aveva un secondo fine, la disdetta del contratto contro la quale i bancari hanno protestato, ma era solo un segnale. Per il rinnovo, aggiunge, bisogna avere più tempo possibile, sedersi attorno ad un tavolo per tutelare l'occupazione e allo stesso tempo recuperare redditività e produttività. È necessario, ha concluso, non perdere tempo. E veniamo adesso al primo tema di questa giornata, che ci riporta naturalmente sull'alluvione in Sardegna. Allora, innanzitutto qualche notizia, poi insomma stiamo cercando di raggiungere il nostro interlocutore e vediamo se arriverà, se no faremo un altro tema prima e poi parleremo della Sardegna dopo. Il governo ha decretato lo stato di emergenza, bilancio provvisorio, lo sapete, ve l'hanno raccontato i giornali radio, di 18 vittime. Sono stati stanziati 20 milioni di euro per i primi aiuti, mentre la giunta regionale ha deliberato ulteriori 5 milioni e aiuti sono attesi anche dall'Unione Europea. Ci sono migliaia di sfollati, almeno 2.700, ha riferito il ministro dell'Ambiente Orlando nella sua informativa oggi alla Camera. Noi ce ne occupiamo pur insomma... nel dolore per le vittime, dal nostro particolare punto di vista, come si diceva, che è quello economico. Io saluto Alberto Scanu, che è presidente di Confindustria Sardegna. Presidente, buongiorno, buonasera, anzi benvenuto. Buonasera anche a lei, ai radioascoltatori. Allora, ci dica com'è la situazione per quanto riguarda le vostre imprese associate, che condizione c'è e se state già iniziando a fare una ricognizione dei danni. Chiaramente la priorità è stata quella della salvaguardia delle vite umane e quindi, come stava riferendo anche lei, i danni maggiori purtroppo li abbiamo riscontrati nelle città e in alcune città in particolare. Per quanto riguarda le nostre aziende, una parte non ha avuto problemi, un'altra parte, soprattutto questo le dico nella zona del Campidano, quindi a nord di Cagliari, che è stata una delle aree più colpite, e ci sono alcune zone industriali che sono completamente allagate ed invase dal fango. c'è stata anche un'azione forte di solidarietà da parte di imprenditori di altre aree della regione che hanno messo a disposizione uomini e mezzi per cercare di dare una mano, però le dico che sulla base delle informazioni che abbiamo ciò non è stato per ora possibile, nel senso che qui continua a esserci brutto tempo, piove ancora tantissimo, per cui ci sono delle esigenze di sicurezza che non consentono neanche di cominciare a fare la prima stima dei danni. Un altro tema rilevante è che chiaramente molte aziende hanno avuto problemi per l'arrivo dei propri collaboratori nei diversi stabilimenti, per cui si è lavorato chiaramente oggi a ritmo assolutamente ridotto. Ovviamente, il problema dei trasporti è un problema molto importante, quindi anche su quello chiaramente si sta andando verso un rallentamento di tutte le attività produttive. I danni in una regione, Presidente, che insomma non è che fosse già in una condizione economica ottimale, ecco. Assolutamente, sappiamo bene che nella nostra regione la crisi, anche per una congiuntura internazionale particolarmente favorevole, si è fatta sentire molto, soprattutto in alcune grandi imprese strategiche anche per il nostro paese che sono entrate in crisi, mi riferisco in particolare al polo dell'alluminio che tutti conosciamo, e però anche in altri settori, e quindi chiaramente questa è un'ulteriore mazzata che va a sommarsi ai problemi che abbiamo subito negli ultimi anni. Quindi ecco perché l'intensità è molto forte, è molto sentita, e ripeto, a livello di aziende abbiamo avuto dei danni, però paradossalmente in questo momento siamo molto più concentrati sui problemi avuti nelle città e quindi indirettamente anche sui nostri collaboratori, perché sicuramente tantissimi oggi non sono potuti andare al lavoro. Naturalmente è presto per una stima dei danni, immagino, no? Assolutamente sì, le posso dire però che ci sono aziende che hanno ci può dare l'ordine di la dimensione, quantomeno insomma nell'ordine delle decine, delle centinaia. Guardi, di milioni. Io le posso dire che parlo soprattutto di un tessuto di piccole e medie imprese. Ci sono delle imprese che hanno perso tutti i macchinari, che hanno perso il magazzino, e quindi sicuramente per queste i danni sono più ingenti. Devo dire che l'assistenza da parte di tutte le persone intervenute è molto forte, e in questo momento ci sono anche i rappresentanti delle istituzioni a ciò preposte che stanno proprio facendo anche le prime verifiche e la stima anche con documentazione fotografica dei danni subiti dalle nostre imprese associate. Però ecco, è difficile pronunciarsi, sicuramente parliamo di milioni e milioni di euro, di certo non neanche paragonabili a quelle cifre pur importanti che sono state stanziate dal governo, i 20 milioni e certo. 5 milioni della giunta regionale per i primi aiuti. Ecco, nel settore industriale e più imprenditoriale più in genere parliamo sicuramente di cifre molto ma molto più importanti. Grazie ad Alberto Scanu, presidente di Confindustria Sardegna, per essere stato con noi, e torneremo a sentirlo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie Scanu, buona giornata. Noi adesso, allora, chi ci scrive, ma quando ci fu il terremoto in Emilia sono stati così veloci nello stanziare i soldi che ha stanziato il governo oggi, lo ribadiamo, sono per questa prima fase, per la gestione dell'emergenza iniziale, poi si vedrà naturalmente, perché insomma le cose stanno succedendo in queste ore e non c'è nemmeno una vaga stima dei danni. Come avete sentito, si vedrà nelle prossime ore che cosa succederà e quanto il governo, lo Stato potrà stanziare. Noi adesso cambiamo argomento, ci occupiamo ancora di industria, ma ci occupiamo di una vertenza che stanotte è finita male. È saltata la trattativa per la Indesit al Ministero dello Sviluppo Economico, dove sindacati, aziende e istituzioni erano riuniti dal pomeriggio di ieri nel tentativo di trovare un accordo sul piano di ristrutturazione presentato dall'azienda nel giugno di quest'anno. Saluto Marco Milani, amministratore delegato di Indesit Company. Salve, buonasera. Siamo in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Ed eccoci di nuovo negli sms, se volete al 349-238-6666. E come si diceva, parliamo adesso della trattativa Indesit, che si è interrotta questa mattina al Ministero, delle attività produttive, dello sviluppo economico, scusate. Faticavo a trovare la parola perché anche questi, anche i ministeri tendono a cambiare nome un po' rapidamente, ecco. Avrei detto dell'industria, ma insomma, parliamo di qualche anno fa ormai. Succede. Marco Milani, amministratore delegato di Indesit, eccoci. Buonasera a voi. Buonasera, buonasera. Prima abbiamo sentito una musichetta di attesa, non so che cosa fosse successo. Allora, inizialmente voi prevedevate un esubero per 1.400 dipendenti, poi questo numero è sceso fino a 1.030. Ci fa innanzitutto un po' di conti da questo punto di vista, che cosa prevedete dal punto di vista degli esuberi, poi veniamo alla parte investimenti e trasferimento di produzioni dall'estero verso l'Italia e viceversa, però ci aiuti innanzitutto a fare un po' di conti sugli esuberi. I numeri vengono dal piano che noi abbiamo chiamato il piano di rafforzamento della Indesit in Italia. L'obiettivo del piano è quello di rendere sostenibile nei prossimi anni la presenza industriale di Indesit in Italia e quindi è basato sostanzialmente su investimenti aggiuntivi da fare sulle fabbriche e sui prodotti fatti in Italia, sulla concentrazione di produzioni di alto valore aggiunto nelle fabbriche italiane e sullo spostamento dalle fabbriche italiane verso paesi a basso costo sostanzialmente soltanto delle lavabiancherie basso di gamma che non sono più producibili in Italia in maniera competitiva. Certo, quindi l'alto di gamma in Italia, dove appunto hai più margini evidentemente e dove i margini non ci sono per una serie di motivi, non ultimo il costo del lavoro, immagino, il basso di gamma lo vai a produrre in posti dove il lavoro costa meno, la produzione costa meno, eccetera eccetera, insomma abbastanza normale, mettiamola così come ragionamento. Sì, l'Italia è un paese avanzato e come tale ha costi più elevati e non è pensabile che possa mantenere una competitività in produzioni, chiamiamole economiche, in cui il costo del lavoro sicuramente è molto più elevato di altri paesi anche all'interno dell'Europa, in particolare dell'Europa dell'Est, valori bassi di costo del prodotto su cui il costo del lavoro ha un'incidenza ovviamente più elevata. Ovviamente. Allora, quante persone dovrebbero uscire dalla Indesit in Italia? Cioè quanti lavoratori? Dalla Indesit noi non vogliamo far uscire assolutamente nessuno. Noi oggi abbiamo 1.150 impiegati negli uffici che sostanzialmente si occupano di attività di ricerca e sviluppo, tutta la progettazione dei prodotti Indesit e Hotpoint Ariston viene fatta in Italia e abbiamo 2.400 addetti negli stabilimenti. L'abbassamento della domanda conseguente alla crisi finanziaria, perché il mercato dell'elettrodomestico è calato in maniera particolare in Italia ma un po' in tutta Europa, fa sì che oggi mediamente noi non utilizziamo circa 650 di questi addetti delle fabbriche. Quello che noi abbiamo detto, noi facciamo queste operazioni di modifica dell'assetto industriale italiano per renderlo sostenibile e chiediamo di poter utilizzare contratti di solidarietà nei prossimi anni in maniera tale che invece di avere un certo numero di persone che non lavorano mediamente nel corso dell'anno perché sono in cassa integrazione, vogliamo affrontare l'argomento e parlare di solidarietà, cioè far lavorare tutti a tempo più ridotto, ma ovviamente con i benefici che i contratti di solidarietà possono dare dal punto di vista dei salari. E complessivamente siamo partiti da un numero che è quello che citava lei, che era di 1.400, di cui 150 impiegati, e da subito abbiamo detto i 150 impiegati vorremmo utilizzare i contratti di solidarietà perché noi nei prossimi anni siamo sicuri di andarli a riassorbire, cioè non vogliamo perdere le competenze e le capacità che ci sono con le nostre persone, quindi li utilizziamo per un orario un po' ridotto, però non vogliamo perderle. Dal punto di vista degli operai inizialmente siamo partiti con un numero che era di 1000, se ricordo bene 1.250, siamo scesi vicino a 1000 e devo dire che nella nottata di ieri eravamo scesi a numeri ancora inferiori, però ripeto, senza voler fare uscire nessuno dai nostri stabilimenti, utilizzando i contratti di solidarietà, poi nei prossimi anni utilizzando il pensionamento e i prepensionamenti per coloro che matureranno i diritti in quel periodo e poi andando a riassorbire una parte di queste persone perché ci aspettiamo che la domanda di mercato vada a riprendere e quindi auspicabilmente potremo riportare persone all'interno delle fabbriche, perché sono stabilimenti che producono in esclusiva certe tipologie di prodotti. Quindi una domanda di mercato in ripresa, come auspichiamo che sia, perché altrimenti sarebbero guai per tutti, non solo per l'Indesit ovviamente, certamente porterebbe una ripresa di volumi all'interno delle fabbriche italiane. Questo è il piano. Allora, questo è il vostro piano. Voglio farvi sentire, prima di farle un'ultima domanda, un ultimo paio di domande molto rapide, voglio farvi sentire Gianluca Ficco, che è coordinatore nazionale della UILM, su questo tema, la risposta quindi del sindacato, al microfono di Maria Piera Ceci. La trattativa sicuramente si è interrotta in maniera brusca, non siamo riusciti stanotte a superare le distanze che ancora ci dividono dall'azienda e Indesit ha annunciato che di fronte a questo aprirà una procedura di mobilità. Su che punti si è arenata la trattativa? I punti più rilevanti sono quelli che riguardano l'impatto occupazionale, che noi vorremmo pari al numero di quanti possono agganciare la pensione nei prossimi anni. C'è, cioè, voi puntate distanza solo sui prepensionamenti sostanzialmente? Noi pensiamo che ci debbano essere delle missioni produttive chiare per ciascuno stabilimento, tali da minimizzare l'impatto già pesante della cassa integrazione negli stabilimenti italiani, e pensiamo che non sia oggi possibile immaginare di gestire più esuberi di quanti si possono gestire coi prepensionamenti, poiché purtroppo le riallocazioni esterne, che sono l'altro grande strumento, sono oggi molto difficili a causa della crisi. Allora, Milani, immagino che, non so se c'è stato lei o il responsabile delle vostre relazioni industriali in questa lunga nottata con i sindacati, e quindi le loro posizioni l'avrà sentite, vorrei capire come risponde a questo. Ma non... il punto è che francamente per noi in questo momento devo dire che il sentimento principale che io provo da una parte è come dire stupore e delusione, perché onestamente per il modo in cui è strutturato il piano e per tutti i miglioramenti che sono stati messi in campo negli ultimi 5 mesi, quindi uno sforzo, una serie di sforzi che l'azienda ha fatto, onestamente io pensavo e penso e sono convinto assolutamente che un accordo sia assolutamente a portata di mano. E che tiene conto anche quello che Ficco ha detto un attimo fa nel vostro servizio. Dall'altra parte però devo dire anche che in questo momento l'altro sentimento, forse ancora più forte da parte mia, è tristezza, perché il nostro piano è stato disegnato sin dall'inizio certo per il bene dell'azienda, ma con un'attenzione fortissima a minimizzare l'impatto negativo sulle nostre persone. E questo è esattamente quello a cui noi miriamo attraverso i contratti di solidarietà, attraverso l'eliminazione completa di qualsiasi forma di licenziamento o di mobilità forzata, attraverso gli investimenti. E invece purtroppo questa chiusura ennesima a cui ci siamo trovati davanti nel corso della riunione di questa notte, purtroppo ci obbliga ad andare avanti in maniera indipendente, aprendo una procedura di mobilità che è l'ultima cosa che io personalmente e tutti i miei collaboratori vorremmo fare, perché da una situazione che auspichiamo, in cui nessuno perde posto di lavoro e gestiamo in maniera morbida la transizione da un assetto industriale ad un altro assetto industriale, invece se non c'è un ripensamento, che io ovviamente auspico, ci troviamo di fronte al fatto che 1.400 dei miei colleghi operai ed impiegati saranno destinatari di una procedura di mobilità che veramente non è un qualche cosa che è nella tradizione Indesit. Un'ultima domanda che le devo fare, io non so se possa o non possa rispondermi. Nei giorni scorsi sono diffuse indiscrezioni di un'apertura vostra ad un socio estero. Electrolux ha manifestato interesse per alcuni asset di Indesit, l'amministratore delegato Keith McLaughlin. Che cosa ci dice? Che non c'è niente di nuovo assolutamente. L'Indesit è un'azienda estremamente solida dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista commerciale, del livello di innovazione dei prodotti, ed è un'azienda che io ho sempre detto che è in grado di camminare con le sue gambe e non corre sicuramente pericoli di stabilità nel futuro. Allo stesso tempo però dico anche agli investitori, agli analisti e all'interno dell'azienda ormai da tempo, certamente da oltre un anno, che visto che il mercato all'esterno sta diventando sempre più difficile e più competitivo, lo scenario competitivo si fa più pesante, è anche opportuno valutare se possibili alleanze, non domani mattina ma nel futuro di Indesit, possono aiutare Indesit a fare... a diventare un po' più grande, un po' più robusta e quindi a sostenere meglio lo sviluppo nei prossimi anni. Questo è stato fatto proprio in qualche modo dal nostro azionista di maggioranza, che ha provato a iniziare un'esplorazione per valutare che opportunità ci sono. È tutto qui, è un qualche cosa di ampiamente risaputo nel mercato, è un qualche cosa che credo chiunque possa condividere, è un qualcosa di positivo esclusivamente per l'Indesit, ma credo, perché non è un processo che sta guidando l'azienda, ma è una valutazione che viene fatta dall'azionista di maggioranza, credo che sia anche un qualche cosa di molto sano e di condivisibile e comunque molto all'inizio, molto molto molto all'inizio. Ed eccoci qua a parlare di tasse con Mauro Meazza, che orgogliosamente, giustamente, esibisce una copia del Sole 24 Ore del 4 di novembre, dove veniva anticipato il rapporto del quale vogliamo parlare oggi, che oggi è ufficiale, sì, il consueto rapporto di PricewaterhouseCoopers e la Banca Mondiale. Mauro, ciao, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Scusate lo scatto d'orgoglio, però insomma quando la propria squadra segna, uno giustamente esulta dagli spalti. No, avevamo anticipato infatti tra salienti di questo rapporto appunto sul Sole 24 Ore il lunedì 4 novembre. Il dato è quello che poi appunto avevamo sottolineato allora, viene risottolineato oggi alla diffusione completa del rapporto: finisce in tasse il 65,8% degli utili delle imprese italiane. Ma quasi mi viene da dire, guarda Simone, non è una novità, o meglio, lo sappiamo, oggi ancora l'OCSE ha detto abbassate. Però siamo peggiorati. Continuiamo a peggiorare. Beh, d'altra parte va anche compreso che c'è questa spirale del rigore, come potremmo chiamarla, per cui noi abbiamo questo debito enorme, il PIL che non cresce, ed essendo i due in rapporto, come sai, come sanno gli ascoltatori, dobbiamo continuamente intervenire con una leva fiscale, non facciamo altro che appunto mettere una leva fiscale sempre maggiore e peggioriamo. Però non miglioriamo neanche, purtroppo, e questo volevo un po' segnalarlo, proprio nella qualità del rapporto fiscale. Cioè in Germania, scrivevamo già appunto ai primi di novembre, un'azienda se la cava con 9 versamenti fiscali all'anno e 218 ore di lavoro per adempiere a questi obblighi. Da noi ci sono 15 versamenti e 269 ore di tempo. Ora, sapendo che questa è una media, io sono sicuro che tra i nostri ascoltatori ci saranno parecchi che potranno dire magari fossero solo 269 ore, perché in realtà quando poi, come ci accade adesso, sei costretto ad attendere decisioni ultime per capire devo versare, non devo versare, quale sarà il mio conto IRES, quale sarà il destino della mia IRAP, ecco, allora lì diventa tutto ulteriormente più complicato e quindi anche le 269 ore rischiano di essere poche. Tra l'altro, Mauro, giusto per, come dire, per dare una botta ulteriore ai nostri ascoltatori, brevemente, già ieri pubblicate, secondo me, uno splendido pezzo, era l'apertura del Sole 24 Ore del lunedì, che ci raccontava come ci sono una serie di clausole di salvaguardia in agguato, sì, che sono quelle che scattano se gli obiettivi di bilancio non vengono rispettati sostanzialmente, cioè se, come dire, se le manovre fiscali previste fino adesso non dovessero dare il gettito preventivato, sono di fatto nuove tasse in agguato. Sono delle uscite di sicurezza, potremmo definirle, però sicurezza dei conti pubblici, vorrei precisare, cioè non sicurezza dei contribuenti. Nel senso che il governo prevede una misura, se questa misura però non dovesse dare il gettito sperato ci sono degli aumenti già previsti. Ad esempio, ricordavamo noi ieri l'aumento delle accise, l'aumento degli acconti, c'è anche, e diciamo è un'ombra pesante, anche se in questo momento se ne parla meno, a fine gennaio la possibile riduzione degli sconti dall'IRPEF. Sono quegli sconti molto popolari, il famoso 19, famoso insomma tra gli addetti ai lavori, 19% che il fisco ci riconosce per quanto riguarda le nostre spese sanitarie. Quello, se entro fine gennaio non si fa un riordino che dà almeno un mezzo miliardo, ebbene diventa 18%, decorrenza, attenzione, 2013. Quindi decisione a gennaio 2014, ma la decorrenza vale già per il 2013. Grazie Mauro Meazza del Sole 24 Ore per essere stato con noi. A voi. Noi prima di chiudere abbiamo ancora 3 minuti e mezzo, perché poi vi ricordo che alle 18.05 andrà in onda lo speciale di Radio 24 dedicato a quello che è successo in Sardegna, l'alluvione in Sardegna, condotto da Roberta Giordano. In questi 3 minuti e mezzo vi riassumo com'è andata la giornata di borsa, una giornata complessivamente negativa, colpita anche dal ribasso delle previsioni dell'Ocse, comunque meno 1,64% sul FTSE All Share, meno 1,77% sul FTSE MIB. Per quanto riguarda i singoli titoli, i migliori di Assori in più 1,76 e Pirelli più 0,45. Da segnalare la performance negativa in questo caso di Finmeccanica, alla fine chiude con un meno 2,45% sulla scorta delle notizie che si sono diffuse in queste ore, diffuse ai media indiani, secondo le quali appunto sarebbe saltato il contratto di Augusta Westland con il governo indiano per 12 elicotteri, notizia per il momento tra l'altro smentita da Finmeccanica, comunque un calo del 2,45%. Da segnalare anche Saipem, negativa del 4,07%, prese di beneficio dopo i rialzi di ieri. Poi c'è qualche giudizio prudente da parte degli analisti. Giù Buzzi Unicem del 3,5%, Exor del 3,07%, la Popolare di Milano del 2,8%, Mediaset del 2,67%. Exor, così come per Fiat, per Exor così come per Fiat, che scende dell'1,34%, pesano i dati sulle immatricolazioni in Europa che sono arrivati oggi e dei quali vi abbiamo parlato, dove ci sono ancora una volta segnali negativi per Fiat anche per quanto riguarda il mercato italiano. Ancora altri titoli negativi del resto sul listino principale sono positivi solamente in due, appunto di Assorin e Pirelli. C'è ancora Tenaris giù del 2,5%, Enel del 2,4%, Bibanca del 2,4%, Ferragamo del 2,3%, altrettanto Telecom Italia, GTEC del 2,2%, di 2 punti percentuali Enel, Green Power e altrettanto Eni, giù Mediobanca del 2%, dell'1,8% Unicredit, dell'1,87% Autogrill, Campari dell'1,7%, CNH altrettanto, così come Azimut, cala anche Mediolanum dell'1,6%, la Popolare Emilia Romagna di 1,5%, così come Luxottica e Intesa San Paolo dell'1,4%, TOTS, Fiat l'abbiamo detta, Prismian giù dell'1,2%, Snam dell'1,2%, Monte dei Paschi dell'1,1%, di 1 punto percentuale anche A2A, Terna, Banco Popolare, World Duty Free che scende dello 0,9%, negativa anche Generali dello 0,9%, Atlantia dello 0,8%, così come Ansaldo, e Parmalat dello 0,6%, ST Microelectronics di 0,5 punto percentuale. Euro che quota 1,3529 contro dollaro. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, Alessandro Iacopini e Mauro Del Corno in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo come sempre domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.